Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Crisi di governo, oggi pomeriggio iniziano le consultazioni a colloquio con Mattarella, Grasso, Boldrini e Napolitano. L'Europa non rischia una crisi bancaria, dice Moscovici, la BCE riunisce il direttivo, possibile l'estensione dell'acquisto di titoli. Reggio Emilia ha arrestato un pedofilo seriale, abusi per 10 anni, forse su centinaia di minori, almeno 30 i casi accertati. Aleppo parla Assad, una vittoria ma non la fine della guerra, la Croce Rossa riesce a portare 150 malati fuori dalla città. La prima della scala fa il botto in TV, picchi di oltre 3 milioni di telespettatori, uno share di più del 13%. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, in onda dunque anche oggi, giorno di festa, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque la crisi politica, iniziano oggi le consultazioni di Mattarella. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Con le dimissioni rassegnate ieri da Matteo Renzi e l'apertura formale della crisi di governo, la parola passa in questo momento al presidente Mattarella, che nel pomeriggio, lo dicevi, avvierà le consultazioni e i primi a salire al colle saranno, a partire dalle 18, i presidenti di Senato e Camera, Grasso e Boldrini, e il presidente emerito Napolitano. Domani invece sarà la volta delle forze politiche minori, mentre sabato saranno sentiti i partiti più rappresentativi, per ultimo proprio il Partito Democratico, nella cui delegazione non ci sarà però Matteo Renzi, che ha deciso di lasciare Roma e seguire da casa gli sviluppi di questa crisi. Domenica sarà probabilmente una giornata di riflessione per Mattarella, che lunedì dovrebbe conferire l'incarico di formare il nuovo governo. Tra le ipotesi che stanno circolando in queste ore c'è quella di un reincarico allo stesso Renzi, anche se dobbiamo dire che ieri il segretario democratico l'ha esclusa, indicando invece l'ipotesi di un governo di tutti, cioè di un governo, diciamo, di responsabilità nazionale, oppure le elezioni anticipate subito dopo il verdetto della consulta sull'Italicum. Terza strada percorribile, infine, è quella di un governo istituzionale o politico sempre a guida PD, e in questo caso per l'incarico i nomi che stanno circolando sono quelli dei ministri Padoan, Gentiloni o Del Rio. Per quanto riguarda invece le opposizioni, Lega e Movimento 5 Stelle insistono con forza nel chiedere di andare quanto prima al voto, alle elezioni anticipate, e assieme a Forza Italia già ieri hanno subito bocciato l'ipotesi di un governo di tutti che era stata indicata da Renzi. Simone. E grazie Andrea Viali per questo punto di giornata. Parla su questo anche l'Europa, parla il commissario agli affari economici Pierre Moscovici, che dice che la crisi politica in Italia non può far vacillare l'Europa e l'Europa stessa non teme alcuna crisi bancaria. La domanda se la crisi italiana possa far vacillare l'Unione Europea, il commissario ha risposto un secco no, spiegando che in Italia c'è una crisi ma c'è anche continuità e che i problemi delle banche italiane sono gli stessi della scorsa settimana, non si sono aggravati. C'è attesa oggi intanto per le decisioni della Banca Centrale Europea, che potrebbe estendere l'acquisto di titoli, il quantitative easing. Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buongiorno, che attese ci sono, Alessandro? Sì, buongiorno, la torre della Banca Centrale Europea è avvolta nella nebbia qui a Francoforte, nei quartieri orientali della città. Per vederci più chiaro bisogna aspettare il comunicato delle 13.45, che dovrebbe delineare alcune misure, e alle 14.30 soprattutto la conferenza stampa di Mario Draghi. L'aspettativa è che gli acquisti di titoli vengano prolungati per 6 mesi di 80 miliardi al mese, come avviene ora, ma c'è un grosso interrogativo su cosa la BCE farà dopo e anche su quali saranno le posizioni in consiglio. Poi c'è la possibilità che Mario Draghi commenti, perlomeno noi giornalisti proveremo a provocarlo in questo senso, commenti la crisi italiana e le difficoltà del Monte dei Paschi, vedremo. Vedremo dunque che cosa succederà oggi e sapremo tutto dopo la conferenza stampa appunto di Draghi. Ovviamente vi aggiorneremo all'interno dei nostri appuntamenti con l'informazione. Intanto ieri, come sapete, è passata la manovra, è passata definitivamente, è passata al Senato, era l'atto richiesto dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima che Renzi potesse presentare le dimissioni. Facciamo un punto abbastanza generale sui contenuti con Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Umbria. Ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, abbastanza generale, hai detto bene, perché la manovra è molto composita. Metto lì qualcuno dei grandi temi, soprattutto direi la previdenza, le pensioni, cioè l'APE dentro questa legge di bilancio, cioè l'anticipo pensionistico. Era atteso la possibilità di ritirarsi con diverse modalità, a seconda che l'azienda ad esempio sia in stato di crisi, allora in quel caso c'è un intervento statale, oppure in modo del tutto volontario, ed è un'altra modalità di anticipare di 3 anni il ritiro dal lavoro. Poi ci sono tutta una serie di misure per incentivare le attività industriali e gli investimenti, ci sono questi maxi ammortamenti, iperammortamenti, faccio grazia delle questioni tecniche agli ascoltatori, ma ci sono anche misure ad esempio per una nuova tassazione delle piccole imprese e delle imprese individuali, la cosiddetta IRI, l'imposta sul reddito d'impresa. Altre cose ancora che cito qua e là, ci sono naturalmente i bonus, la conferma per gli sconti per i lavori in casa, gli sconti fiscali per i lavori in casa, e poi ci sono anche delle misure ad esempio per i lavoratori autonomi con una riduzione, ed è la prima volta dopo un po' di anni di aumento, dell'aliquota contributiva alla gestione separata INPS, scende al 25%. Tutto questo e molto altro, mi viene da dire, noi da domani cominciamo una serie di guide, già oggi abbiamo rappresentato un po' di queste misure, il complesso delle misure in pagina 2 e 3, da domani una serie di guide sul Sole 24 Ore ogni giorno per 8 uscite per spiegare tutti i contenuti tema per tema. Cominciamo proprio dalle pensioni domani, mi sembra fosse il tema più atteso. Ti ringrazio, grazie dunque a Mauro Meazza, tutti i dettagli dunque sul Sole 24 Ore di oggi e dei prossimi giorni. Una notizia appena battuta dalle agenzie, sono dichiarazioni del commissario europeo Dimitris Avramopoulos e che riguardano i migranti. Se confrontiamo Italia e Grecia, dice, vediamo che fino all'80% dei migranti che attraversano il Mare Egeo, e quindi quelli che arrivano in Grecia, sono profughi, mentre la maggioranza di quelli che arrivano in Italia dal Mediterraneo centrale, anche in questo caso l'80%, sono irregolari. Non intendiamo cambiare i criteri delle nazionalità da ricollocare, così appunto il commissario europeo Dimitris Avramopoulos, interpellato su questi temi. Veniamo alla cronaca italiana con una vicenda terribile che arriva da Reggio Emilia. Avrebbe adescato centinaia di adolescenti in oltre 10 anni all'uscita da scuola, ma anche attraverso social come Facebook. Protagonista della vicenda un 40enne sudamericano arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia, che hanno documentato i suoi abusi. Vestito da donna e truccato dalla finestra della propria abitazione, gettava banconote ai minori in uscita da scuola, alcuni di 13 anni, invitandoli a salire in casa e consumare rapporti sessuali con quella che le giovani vittime pensavano fosse una donna. L'uomo filmava di nascosto alcuni incontri e in alcuni casi acquistava dai ragazzini foto e video pedopornografici. L'adescamento avveniva anche grazie a Facebook. Il quarantenne utilizzava falsi profili femminili. 30 fino ad ora le giovani vittime identificate, ma gli abusi sarebbero molti di più. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È una vicenda questa della quale torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno e nel corso del nostro consueto giro per l'Italia. Adesso ci spostiamo all'estero, in Siria innanzitutto, con gli aggiornamenti su Aleppo e soprattutto sulle trattative internazionali intorno alla sorte della città. Scorrendo le agenzie delle ultime ore spuntano Mosca e Washington vicine a un'intesa e Lavrov e Kerry riaprono il dialogo. Ma anche Washington non esclude nuove sanzioni contro la Russia e Mosca è indisponibile a trattare se si insisterà con la retorica belligerante. Una situazione davvero confusa. Ieri si sa Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia hanno presentato un documento in cui chiedono un cessate il fuoco per Aleppo, condannano Assad e i suoi sostenitori, leggi quindi Russia e Iran, e chiedono che l'ONU indaghi per crimini di guerra. Ma proprio mentre quel documento veniva reso pubblico, Carter Page, consigliere ombra per la Russia di Donald Trump, partiva per Mosca, per non meglio specificati incontri. Il premier italiano invece si dimetteva, quello francese preparava le valigie per lasciare Matignon, Angela Merkel lanciava la campagna elettorale per il suo quarto mandato e Londra pensava ancora alla Brexit. L'unico esclusivamente concentrato su Aleppo pare essere Bashar al-Assad. Le sue truppe avanzano nei quartieri est. Non sarà la fine della guerra, ha detto intervistato da Al-Watan, ma sarà comunque una vittoria. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E cambiamo decisamente argomento e veniamo alla prima della scala. Beh, ve l'abbiamo raccontata ampiamente anche nei GR di questa mattina. Fatto sta che ieri gli ascolti sono stati veramente ottimi in TV. Marta Cagnola, ciao, buongiorno. Eccoci qui, allora diamo subito i numeri. La Butterfly è piaciuta al pubblico TV, la media di spettatori è stata di 2.664.000 con uno share, cioè la percentuale del 13,48%. Il picco poco dopo le 21, 17,4%, oltre 3.500.000 di spettatori. Allora, ha frantumato il record di ascolti che era stato della Traviata, 650.000 persone, ma era andata in onda su Rai 5, quindi in realtà per Rai 1 è stata una scelta davvero azzeccata, oltre ad essere una scelta semplicemente di servizio pubblico. La cosa bella da vedere è la progressione degli ascolti negli anni. Nel 2020 la prima diretta su Rai 5 0,89%, poi 2,02%, poi 3,26%, andò peggio al Fidelio di Beethoven e a Giovanna d'Arco, forse insomma piacevano un pochino meno. Diciamo comunque chi ha vinto la serata ieri sera è andata molto bene. Ad esempio Francesco, il Papa della gente, che ha fatto il 18,45% su Canale 5. Anche questa è una buona notizia, perché questo era un bel film per la televisione di Daniele Lucchetti. Per concludere, parlando di numeri di prima alla scala, era un anniversario, perché la prima volta della scala in TV fu quella di Franco Zeffirelli nel 1976, era l'Otello di Verdi di Carlos Kleiber. Insomma, un bel anniversario, e anche con gli ascolti TV è stato vendicato l'antico flop della Madama Butterfly di Puccini. Ti ringrazio, grazie alla nostra Marta Cagnola per questo aggiornamento. Beh, adesso restiamo su temi un po' più leggeri, del resto è anche un giorno di festa, il Ponte dell'Immacolata, lo sapete, coincide anche con l'apertura della stagione sciistica. Stiamo facendo un po' di tappe in giro per alcune delle località sciistiche più famose d'Italia, per capire come stanno andando le cose, come si apre questa stagione. Tutte le località sono pronte. Ieri abbiamo sentito il comprensorio delle Dolomiti. Oggi Dario Ceccarelli ci porta nel comprensorio del Monte Rosa, Sky in Piemonte e Valle d'Aosta, con Giorgio Munari che ne è il direttore. Le nevicate della scorsa settimana hanno dato abbondante neve sopra i 2300 metri. Nella parte bassa, con un po' di freddo, siamo riusciti a sparare, a dare i collegamenti, e direi che a parte alcune piste la Monte Rosa Ski si presenta, direi, con un buon innevamento. Quali sono le previsioni anche per Natale, per la nuova stagione? L'inizio è buono, speriamo davvero che il tempo che ci accompagni, che arrivino anche ancora un po' di neve, soprattutto nelle parti basse, per dare un bel paesaggio invernale, ma direi che la partenza è buona. Quest'anno proponete delle novità, perché mi sembra di capire che i turisti stanno cambiando i gusti. Una volta erano tutti per lo sci dalla mattina alla sera, adesso si è un po' diversificata la richiesta, è così? Ma guardi, dipende molto molto dalla tipologia dello sciatore. Noi siamo tra valli collegate e quindi direi che abbiamo bisogno di uno sciatore di buon livello. Queste qua sono anche grossi appassionati di sci, di alpinismo, e quindi è gente che fa ancora molti chilometri di piste. È chiaro che quando ci si rivolge a famiglie, si rivolge a mercati un pelino diversi, sicuramente non è solo più lo sci, ma tenga conto che abbiamo anche molti ristoranti sulle piste, quindi c'è anche un aspetto culinario che non è da trascurare. Oltre al classico sci da discesa, ci sono anche altre discipline? Sì, noi abbiamo soprattutto un impianto che si chiama Indren, a cui ci si arriva quasi a 3.000 e più metri, e da lì c'è tutto un discorso di fuoripista. Questo chiaramente per gente che sa sciare bene. Altre attività? Ma guardi, lo sci da fondo a mio avviso non è in molta crescita, invece discorsi di ciaspole, di sci alpinismo stanno diventando molto molto importanti. Parliamo di una mostra adesso, Nomi, cose e città, è il titolo della personale di Giorgio Ortona al Macro di Roma, che apre oggi fino al 15 gennaio. Grandi vedute urbane, corpi, sacchi di cemento, bassi elettrici, palazzine di periferia e calchi di dentiere vengono raffigurati nei quadri dell'artista romano scoperto da Vittorio Sgarbi. Elisabetta Fiorito lo ha intervistato. Cosa descrive la sua arte? Non descrive niente veramente, descrive la pittura. Però ci sono dei personaggi, ci sono le palazzine. Sono un pretesto per la pittura, sono delle icone che utilizzo per una partenza. Io potrei partire, che invece che da Zievette, potrei partire da una macchia di saliva sull'asfalto. È la stessa identica cosa. Lavoro sul segno, sul ritmo, su tutto ciò che è più imponderabile che non oggettivabile. Però nei suoi quadri si vedono molti colori, si vedono delle immagini delle persone trasfigurate, si vede anche la periferia di Roma, che è un suo leitmotiv. Beh, sono un pittore che vive la città, la propria città, vive il proprio tempo. Io quando vado in periferia vedo le palazzine, non vedo altro, frequento i miei parenti, c'ho gli amici, quindi quello di cui mi circondo cerco di farlo diventare pittura, ma non è che mi posso disegnare la luna non l'ho mai fatta, è troppo lontana. Ciò che mi è intorno la utilizzo per trasfigurarla. Molti colori però, i colori sono sempre molto brillanti. Io ho un ricordo dell'infanzia, erano i colori Giotto, 6, 12, 24 colori Giotto. I ricchi avevano 24 colori e ce n'era un bambino che ne aveva rispetto alla classe di 30 persone. La media ce n'aveva 12, io ce n'avevo 6. Poi mi sono comprato la scatola di Garandace da 187, cioè quindi sono contento. Così dunque Giorgio Ortona mostra fino al 15 gennaio, noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e riprendiamo un po' da un tema che abbiamo toccato anche ieri, quello della cosiddetta Venexit, ossia questa legge approvata dal Consiglio regionale Veneto per il bilinguismo e per il riconoscimento dei veneti come minoranza nazionale. Oggi andremo a parlare con una persona che si occupa esattamente della lingua italiana, ma il veneto è una lingua da vero oppure no? A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione vi abbiamo dato gli aggiornamenti sulla crisi di governo, abbiamo parlato della Banca Centrale Europea che oggi potrebbe decidere su un'estensione del cosiddetto quantitative easing, abbiamo parlato dell'arresto di un pedofilo seriale a Reggio Emilia, ci siamo occupati di Siria e adesso torniamo sulla cosiddetta Venexit, ossia come vi dicevo, ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse e anche ieri, questa legge approvata dal Consiglio regionale Veneto per il riconoscimento dei veneti come minoranza nazionale. E ci sono anche delle questioni connesse a quella che lo stesso relatore della legge, così come un sindaco che era tra i proponenti, c'è anche una questione linguistica. Dicono il veneto è una lingua. Abbiamo in linea con noi Francesco Sabatini, che è il presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Sabatini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ci risponde innanzitutto a questa domanda, perché molti ascoltatori dicono, quando hanno sentito questo consigliere regionale che ci parlava ieri, dicevano, ma perché si paragonavano all'Alto Adige, e ci dicevano, ma scusate, ma quello è tedesco, il veneto è un dialetto, ma il veneto è un dialetto o una lingua, professore? Vecchia, vecchissima domanda. Tutti gli idiomi sono lingue, quindi non è questa differenza di termine. Si tratta di vedere se hanno, prima di tutto, nell'area in cui si parlano, una forma standardizzata, unitaria, sufficientemente unitaria per tutti. Quindi chiamiamole tutti lingue, va benissimo, così eliminiamo uno degli equivoci. Sì. Tali sono. Perché sono strutture organizzate. Quello che conta è che tipo di lingua si parla in un'area molto vasta, in modo sufficientemente unitaria da parte di tutti. Quindi, mi scusi professore, esiste una lingua bellunese, una lingua di Venezia, una lingua di Treviso, presumibilmente, cioè non esiste una lingua veneta. Gli idiomi, guardi, la cosa migliore è chiamarli idiomi, così non si fa torto a nessuno, però lingua può significare sistema linguistico, struttura linguistica, anche quella parlata da 100 persone è una lingua. Non è quindi la differenza di vocabolo con cui la indichiamo, domandiamoci. Per quanti vale e da quanto tempo è usata anche per iscritto, che sia usata non solo per parlare ma in leggi, testi scientifici, argomenti di carattere tecnico, Per definire lingua, usiamolo pure questo termine, un idioma bello, piacevole, storicamente significativo, come sono tutti gli idiomi regionali italiani, per vederci qualcosa di più bisogna tener conto di queste funzioni. Da linguista devo usare qualche termine tecnico. L'ampiezza diatopica, cioè geografica. Se lo vogliamo far valere in una certa area, vasta come una regione italiana, dappertutto si intende, si parla quel tipo abbastanza simile per tutti al 90%, e se non c'è questo c'è una differenza geografica, per dirlo con parola semplice, che comincia a pesare. Secondo, nella società, in tutte le società, le lingue, gli idiomi usati eccetera, hanno delle differenze di strato sociale. Nel Veneto, adesso parliamo specificamente di questo caso, ma certo, abbiamo detto cose simili per la Lombardia, per il Piemonte, sì, non è quindi un atteggiamento, sì, verso nel Veneto. Nel Veneto che cosa succede? Ci sono perlomeno due aree molto diverse, quella bassa, diciamo così, dove Venezia a suo tempo ha affermato di più la sua importanza e quindi anche l'uso del suo tipo linguistico, e quella di montagna, Belluno, Feltre, Treviso, eccetera. Ci sono differenze notevoli, ne faccio subito un esempio. Nell'area bellunese, feltrina, eccetera, nelle parole tutte le vocali finali non si pronunciano, a meno che non sia A. La A resta, ma tutte le altre parole non hanno le vocali finali, quindi si dice gap, e mentre nel veneziano, padovano, eccetera, si dice gato, e così via. Sono molte altre le differenze. Quindi ci sono molte differenze. Non esiste un'area unitaria, in sostanza, ci sta dicendo, che possiamo non definire esiste. Veneto. Che... Appunto, quindi, sia per ragioni geografiche, sia per ragioni, diciamo, di stratigrafia sociale, ci sono aree nelle quali è rimasto di più una forma più antica, più rustica, che crea delle differenze, per esempio differenze del tipo ndom nel bellunese, ndemo nel veneziano. Allora, se si vuole affermare un tipo unico, e qui stiamo parlando del parlato, si intende, sì, è tra ndom e ndemo scorrerà del sangue. Bisognerà operare una scelta. Io la ringrazio, grazie al professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca. Vi ricordo che se volete intervenire nel dibattito, abbiamo anche molti ascoltatori veneti che ci scrivono, domani mattina se ne occupa Oscar Giannino a partire dalle 8:20 proprio di questo tema. Andiamo in Umbria adesso nel nostro giro per l'Italia e torniamo a Norcia con Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Perugia, che è nursino, è proprietario di alcune strutture alberghiere a Norcia. Bianconi, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda è: come vanno le cose? Beh, le cose adesso stiamo entrando nella consapevolezza, stiamo uscendo dall'emergenza che non ci faceva guardare con chiarezza il nostro status. Adesso c'è la consapevolezza che è peggiore dell'emergenza. Dolorosa, immagino. Decisamente sì, perché il terremoto ha sempre caratterizzato, i grandi terremoti che hanno colpito la nostra zona hanno sempre caratterizzato, sono stati sempre caratterizzati dal segnare la fine di un percorso e l'inizio di una nuova storia per la nostra città. E adesso abbiamo la consapevolezza che ci troviamo ancora una volta di fronte a questa situazione. Cioè, quello che è stato a Norcia fino al 23 di agosto, l'inizio di questo ciclo di terremoti, che poi ha avuto il suo apice in quello del 30 ottobre, ha rappresentato il termine di un percorso di una città che aveva raggiunto un livello altissimo di turismo, di vita, di qualità, di tutto il suo sistema sociale, non solo. Adesso dobbiamo ripartire, questa è la sfida. Voi avete dato il via anche a una sorta di consorzio, di associazione che si chiama I Love Norcia, no? Sì, I Love Norcia è un'associazione diversa da We Are Norcia, che è il consorzio degli imprenditori della nostra città, e I Love Norcia riparte proprio dalla base. Ci siamo resi conto tutti che la sfida di Norcia oggi è è una sfida prima di tutto sociale, quella di salvare la nostra comunità fatta da quelle persone che stanno oggi valutando di costruire la loro vita futura qui. E quindi con Alove Norcia vogliamo realizzare in primis un progetto che si chiama Progetto Arca, come simbolo proprio di una ripartenza, di una ricostruzione, di un'identità, di una comunità che vuole provare ad essere migliore di prima. Il problema è che saremo in pochi. Questo è il problema che registriamo oggi. Bianconi, l'ultima cosa che le voglio chiedere è questa: in quanto presidente di Federalberghi Perugia, ovviamente l'impatto sul turismo di una cosa di questo genere colpisce un'area molto più vasta della sola Norcia e della sola Valnerina. Abbiamo letto in queste ore che le stime di Federalberghi, quella nazionale, parlano di 7 milioni di italiani in giro per l'Italia per questo lungo fine settimana. Che segnali riceve lei dal resto del territorio? È un messaggio importante, lo voglio dare a tutti gli italiani, che a parte la zona di Norcia e una parte della Valnerina, il resto dell'Umbria è totalmente usufruibile, senza rischi, senza problemi. L'Umbria è una terra bellissima, e quindi da Perugia ad Assisi, a Gubbio, a Terni, ad Orvieto, è assolutamente visitabile, sia per questo ponte, ma anche per le vacanze di Natale, vale assolutamente il viaggio. Per quanto riguarda i segnali, dobbiamo dire che c'è una piccola ripartenza, ma ancora non come potrebbe essere, considerando che il resto dell'Umbria è assolutamente, come dicevo, usufruibile. L'Umbria quindi è una terra c'è ancora qualche timore probabilmente, Bianconi? Sì, c'è un po' di timore, perché quando si comunica in maniera generalizzata su tutta la nostra regione, ma anche le informazioni che arrivano dalle registrazioni dei sismi purtroppo avvengono tecnicamente prima per provincia e poi per localizzazione, quindi quando si parla di provincia, Perugia è la provincia che copre l'80% del territorio regionale, le persone hanno una percezione di terremoto che colpisce tutta la regione. Non è così, il resto dell'Umbria vale il viaggio, vale le vacanze di Natale. Grazie Vincenzo Bianconi, torneremo da lei senza dubbio, presidente dei Federalberghi Perugia, di Norcia, come si diceva, proprietario di diverse strutture alberghiere proprio a Norcia. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, che sono ovviamente in attesa della Banca Centrale Europea, e poi ricominceremo il nostro giro per l'Italia. Ricominceremo da Milano, dove per parlare della vicenda delle due studentesse morte per la meningite, e torneremo su quella vicenda terribile di Reggio Emilia, di questo pedofilo scoperto dopo 10 anni di abusi, forse su centinaia di ragazzini. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. La crisi di governo, oggi pomeriggio iniziano le consultazioni, a colloquio con Mattarella ci saranno Grasso, Boldrini e Napolitano, e poi domani si proseguirà con le forze politiche. L'Europa non rischia una crisi bancaria, dice intanto il commissario agli affari economici e monetari Moscovici. La BCE oggi riunisce il direttivo. È possibile che ci sia un'estensione dell'acquisto di titoli di Stato oltre il marzo 2017 e per altri 6 mesi. A Reggio Emilia è stato arrestato un pedofilo seriale, abusi per 10 anni, forse su centinaia di minori. Sono almeno 30 al momento i casi accertati, ci torneremo più avanti. Aleppo parla Assad e dice una vittoria ma non la fine della guerra. La Croce Rossa riesce a portare 150 malati fuori dalla città. La prima della Scala ha fatto il botto in TV, picchi di oltre 3 milioni di telespettatori, uno share di più del 13%. Infine una notizia appena battuta dalle agenzie, è morto a 69 anni Greg Lake, bassista, chitarrista, fu tra i protagonisti a partire dal 70 del supergruppo Emerson, Lake and Palmer, è morto di tumore. La notizia è arrivata pochi istanti fa. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo per tornare a parlare della vicenda dei due casi di meningite che si sono verificati all'Università Statale di Milano, e quindi è qua che andiamo nel nostro giro per l'Italia. La vicenda molto dolorosa è di due ragazze, Flavia Roncalli e Alessandra Covezzi, due studentesse di chimica che sono morte di meningite in soli 4 mesi. Quello che si è scoperto adesso, almeno quello che sembra essersi scoperto, ovviamente mancano gli ultimi accertamenti, è che sostanzialmente sarebbero state contagiate dalla stessa persona. Ne parliamo con Giorgio Ciconali, dirigente del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Agenzia Tutela della Salute Milano Città Metropolitana. Ciconali, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei. Allora, è confermata questa ipotesi oppure no? Ma abbastanza. Dico abbastanza perché una conferma al 100% non si può avere, ma a causa della scarsità di materiale che è stato consegnato per le analisi, ecco. Però diciamo che è molto probabile. È molto probabile che sia così. E questo cosa può far prevedere? Un'estensione delle operazioni di prevenzione sulle altre persone che hanno frequentato quelle aule di chimica? Ma guardi, noi fin dall'inizio ci siamo comportati come se fosse così, ecco, nel senso, la presunzione che avevamo anche noi, visto appunto la comunità ristretta, visto tutte le cose che avrete letto, avete sentito in questi giorni, noi ci siamo comportati fin dall'inizio proprio come se fosse quello che sta venendo fuori, ecco, e quindi il contagio sia dovuto a una unica persona, ecco, come è molto probabile, appunto, ripeto, che sia. Conseguentemente tutto il discorso fatto all'inizio di prevenzione attraverso l'antibiotico e tutto quello che parte proprio da domani ci sono le prime 60 vaccinazioni, poi nei prossimi giorni si arriverà a completare quelle famose 140 persone e verranno vaccinate tutte entro Natale. Ecco, queste cose qui sono state fatte proprio in funzione del fatto che si ipotizzasse fin dall'inizio, sì, una possibilità che, cioè, adesso sulla base di questa ipotesi, giustamente per intervenire, insomma, il prima possibile, no? prima ancora di avere i risultati definitivi delle analisi. Sì. Si ipotizza se portare a 500 il numero dei vaccinati, è un'ipotesi che si sente di confermare? È probabile, improbabile? Queste cose le deciderà la nostra direzione insieme alla regione, ecco. Francamente i 140 che sono proprio quelli del nucleo che interessava le due ragazze potrebbero essere assolutamente sufficienti. Se si allargherà a 500 o a numeri diversi, cosa che nelle prossime ore potrà essere decisa, ma ripeto con tutta calma, perché tanto se adesso dobbiamo fare questi 140 fino a Natale è la dimostrazione che ci sono tanti giorni, che non c'è nessun motivo di fretta per andare a vaccinarne altri. Se lo faremo con calma dopo Natale e le motivazioni potranno essere varie, ma non strettamente legate alla necessità di doverlo fare. Non so se mi sono spiegato. Ecco, questi 140 sono necessari e sufficienti. Se si allargherà il discorso lo si farà anche per motivazioni di tranquillità delle persone. Okay. Al di là del discorso infettivo, in queste situazioni ci sono situazioni, il nostro corpo è fatto di corpo ma anche di mente, e quindi può essere che in alcune situazioni estendere le vaccinazioni possa avere un ausilio anche per la tranquillità delle persone piuttosto che per altri motivi. Ecco. Certo, la ringrazio, grazie a Giorgio Ciconali, dirigente del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica di Milano Città Metropolitana. A chiudere, una brutta storia di cronaca di questa mattina, la vicenda di un pedofilo seriale che è stato arrestato, si sospettano centinaia di abusi su minorenni e siamo a Reggio Emilia. Siamo in linea con Alessandra Codeluppi, che è una giornalista, una collega del Resto del Carlino. Alessandra, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Di che cosa si ipotizza? Allora, parliamo di un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Reggio, coordinati dalla Procura di Bologna. L'indagine è coordinata dal procuratore Giuseppe Amato e riguarda i presunti abusi sessuali contestati a un quarantenne sudamericano che aveva chiesto oltretutto lo status di rifugiato politico nella nostra città perché, a suo dire, discriminato sessualmente nel suo paese d'origine, e che per oltre 10 anni avrebbe circuito e avuto prestazioni sessuali pagando lui stesso almeno 30 giovani adolescenti. Secondo le risultanze degli investigatori sarebbero centinaia e centinaia gli abusi commessi a partire dalla fine del 2015. Sarebbero coinvolti, Alessandra, solamente questi 30 minori e i centinaia e le centinaia di abusi sarebbero state su questi 30 minori o si ipotizza un'estensione più ampia? Gli investigatori ipotizzano un'estensione più ampia, infatti il cerchio delle indagini non è ancora chiuso, anche perché non è semplice, diciamo, vincere le comprensibili anche reticenze dei minorenni che avrebbero subito questi abusi. C'è un po' di stupore, Alessandra, te lo chiedo, visto che mm-hmm. frequenti la città, sei una cronista di zona, c'è un po' di stupore per il fatto che per 10 anni siano andate avanti queste cose senza che nessuno si accorgesse di nulla? C'è stupore perché ci si chiede come mai nell'appartamento in cui venivano consumati questi abusi, nel condominio, nessuno si sia reso conto di nulla, a fronte anche del fatto che davanti all'abitazione si creavano file di ragazzi che in certi casi marinavano la scuola per ottenere le prestazioni sessuali di questo sudamericano, che si comportava secondo le accuse in modo piuttosto subdolo, perché lui avvicinava i ragazzini davanti alle scuole, davanti agli oratori parrocchiali, nei parchi pubblici, quindi nei luoghi più frequentati dagli adolescenti. Se questi accettavano immediatamente, perché era lui a pagarli, si precipitava a casa e si travestiva immediatamente da donna, e per le sue fattezze gli risultava anche facile risultare una bella ragazza. Utilizzava tacchi alti, biancheria intima provocante e insomma il trucco. Altrimenti fissava, diciamo, degli appuntamenti in mattinata e qui si creavano file, e lui stesso si permetteva addirittura di scartare quelli che non giudicava, non risultavano secondo lui secondo i suoi canoni, abbastanza belli. Allora io ti ringrazio, grazie Alessandra Codeluppi per averci aiutato a raccontare questa vicenda terribile. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.